Torniamo in diretta su Radio Conegliano, questa è Buongiorno di Marca, con noi Raffaele Ferraro, autore del romanzo Raffo Ferraro on the Rocks. Buongiorno Raffaele. Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità. Ecco, chiedo direttamente a Enrico di mandarci la prima base per questa intervista dedicata al volume di Raffo Ferraro, perché è un libro molto particolare, un romanzo che un po' ripercorre la storia della musica, parti della storia della musica rock americana in particolare, e dei gruppi più storici che hanno caratterizzato quegli anni, partendo diciamo dai colossi, possiamo dire, dai Deep Purple a Lou Reed. Ci sono dei filoni principali e dei filoni che invece portano a autori per alcuni sconosciuti, per altri meno conosciuti, per te invece dello stesso valore dei grandissimi. Sì, innanzitutto direi che dovremmo spiegare com'è strutturato il libro, e cioè ogni capitolo ha il titolo di una canzone e ogni capitolo è strutturato per metà sotto forma di simil saggio musicale e per metà sotto forma di romanzo. Queste 13 canzoni che formano un ideale CD e che quindi stanno dentro la durata degli 80 minuti del CD sono degli artisti più disparati, perché si va da Battiato agli AC/DC. Battiato tra l'altro è l'unico italiano citato. Ecco, dopo ti chiederò appunto di dirci chi hai salvato. Battiato è uno di questi, ma se c'è qualcun altro di salvabile, perché poi inevitabilmente, come una sorta di compilation, diventa un po' diventa davvero una selezione delle musiche preferite, di quello che ha caratterizzato un po' anche la propria esperienza personale. In effetti la componente più difficile è stata quella di selezionare i brani, poi selezionati i brani, l'ordine, che parte di romanzo dovesse corrispondere ad ognuno, il grosso era fatto. Ho scritto il libro in 15 giorni, fermo restando che proprio come quando si realizza una compilation di CD, oggi la farei in un modo e dopodomani la farei in un altro, quindi c'è un momento in cui bisogna dire no, basta, tengo queste. Ecco, le tracce del libro CD le analizzeremo assieme, stiamo già sentendo la prima. Ci vuoi dire qualcosa su questo pezzo, che tra poco, questo è l'intro, tra poco andrà... Ecco, adesso è partita la canzone, questo è un pezzo On the Rocks di Gillan, che è realizzato durante la sua carriera solista, durante lo scioglimento dei Deep Purple, tra fine anni 70 e inizio anni 80. E noi partiamo proprio da lui, alziamo il volume e torniamo tra poco. Nothing to do, no place to go. quindi torniamo in onda con Raffaele Ferraro. Questa era On the Rocks, che è anche il titolo del romanzo, un romanzo nella cui copertina ci sono diversi elementi. Partiamo dal titolo On the Rocks, non solo una canzone. On the Rocks è una canzone, ma anche un gioco di parole col mio libro preferito, che è On the Road di Kerouac, che mi ha fatto venire voglia di scrivere. Intanto perché è un libro dove si parla molto di musica, mi ha fatto venire voglia di scrivere un libro che fosse sia romanzo che saggio musicale, e poi anche perché è un libro in cui la trama non è un elemento preponderante, ma che si va avanti a leggere per sapere cosa succede al protagonista, ai protagonisti, e volevo ricreare un qualcosa di simile. Ecco, nella copertina invece si richiamano i Rolling Stones, solo che questa volta al posto di Keith Richards e compagni ci sei tu. Sì, mi è sempre piaciuta la copertina dell'album Black and Blue dei Rolling Stones, album che poi considero dal punto di vista musicale uno dei peggiori riusciti dei Rolling Stones. Però piacendomi molto questa copertina, volevo farne una sorta di parodia, e quindi ho riprodotto la foto in cui io sono al posto di Mick Jagger e al posto di Keith Richards c'è l'illustratrice del libro, Valentina Marotto. Senti, ti chiedo di fare una piccola introduzione sulla seconda traccia e sul secondo capitolo del tuo libro, perché lo ascolteremo rientrando direttamente dalla pubblicità. La seconda traccia, che poi è il primo vero capitolo, perché questo On the Rocks nel libro è semplicemente un prologo, è una canzone dei Violent Femmes, che è un gruppo non molto conosciuto in Italia, ma è nato all'inizio degli anni 80 nella scena americana, ma che sembrava un gruppo degli anni 60 per come suonava, una specie di misto di punk e di folk con strumenti acustici, quindi una cosa assolutamente originale. Nella parte romanzo sono associati a questa canzone alcuni aneddoti dell'infanzia del protagonista. Ecco. I need a kiss. Why can't I get just one screw? Why can't I get just one screw? Leave me, I know what to do, but something won't let me make love to you. Why can't I get just one fuck? Why can't I get just one fuck? I guess it's got something to do with life, for just one day after day, I get angry and I will say that the day is in my sight. When I take a bow, I say goodnight. Oh my mama, mama, oh my mom, if you kept your eye on your son. I know you've had problems, you're not the only one. When your sugar left, he left you on the run. So mow my mama, mama, mow my mom. Take a look now, look what your boy has done. He's walking around like he's number one. So he went downtown and he got all my guns. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that thing at me. un libro quasi come fosse un compact disc, un vinile ancora meglio, quello di Raffaele Ferrario, ma entriamo un po' meglio nel romanzo, un po' nella prefazione di Oliviero Toscani, che intanto insomma dà lustro al tuo lavoro. Si parla anche, lui ti definisce un reporter, un cronista, quindi romanzo, cronaca e musica. Ma lui a dire il vero parte in maniera originale dicendo che ci sono due tratti distintivi della cronaca, che io non ne rispetto nessuno dei due, ma che lui deve darmi atto che in questo libro c'è anche cronaca. Devo dire che mi ha reso molto felice che Oliviero Toscani abbia voluto farmi questa prefazione, e che quello che ha scritto, al di là di dar lustro, mi ha fatto anche riflettere sul fatto che quando era giovane lui negli anni 60 e la sua gioventù non era come la mia da fan verso i cantanti o gruppi, ma era da pari a pari da artista che ha vissuto a Londra, che ha vissuto a New York, che ha festeggiato il compleanno con Lou Reed perché sono nati a due giorni di distanza, e che ha conosciuto Brian Jones, Jim Morrison. Loro non si rendevano conto di quanto fosse importante quel periodo musicale e di quanto sarebbe stato poi difficilmente ripetibile in futuro. E rispetto a quella che può essere la generazione nostra, di sicuro non avevano nessun tipo di nostalgia nei confronti di quello che ascoltavano i loro genitori. Un libro flusso del pensiero, anche un flusso di pensiero, com'è che si intrecciano le storie di questi gruppi musicali mitici e quella invece diciamo più romanzata del protagonista, che in parte sei te, in parte un po' appartengono a forse anche a un'immaginazione, a un immaginario, ecco, come si intrecciano le tracce musicali, la storia romanzata e le storie invece di cronaca di gruppi tutto musicali? Gira intorno alla voce narrante che, spulciando tra la sua collezione di CD, all'inizio di ogni capitolo ne prende in mano uno, e quindi c'è una parte in cui si parla del gruppo, dell'artista musicalmente, e il taglio comunque non è quello tecnico, ma è un taglio emozionale, quindi facilmente digeribile e pieno di aneddoti anche per chi non conosce l'artista o gruppo. E poi a metà del capitolo c'è una frase della canzone che fa da cesura, e da lì parte una parte a romanzo che in qualche modo è ricollegata alla canzone, alla frase della canzone. E l'ultima cosa che ci manca da dire anche sulla struttura del libro è che all'inizio di ogni capitolo ha una copertina che è una parodia fumettistica delle copertine degli album da cui è tratta la canzone che dà il titolo al capitolo. Sì, come in ogni, quasi fosse ogni capitolo un CD, c'è una copertina, un'illustrazione appunto. Parlavamo prima appunto di CD, è particolare quello che tu dici anche sulla scelta, sulla cultura musicale tua, ma forse di ognuno, quello che quasi quasi sia un CD a sceglierti, o comunque un gruppo o un disco a sceglierti nel momento giusto. È più difficile che sia te a scegliere di ascoltare qualcosa? Beh, in realtà io sono molto selettivo, quindi mi faccio poco influenzare da quello che passa per la radio o dalle mode del momento che vanno e vengono. Poi è vero che mi è capitato con alcuni artisti che non mi dicessero niente in un periodo e poi riascoltarli in un altro momento e appassionarmi. Penso soprattutto, questo mi è successo con Iggy Pop, gli Stooges e anche con Battiato. E proprio con Iggy Pop si apre il terzo capitolo, che è anche la prossima canzone che sentiremo. Search and Destroy è una canzone che ha fatto la storia della musica, e questa è una versione live di Iggy Pop di Capodanno 97, estremamente potente. Poi non c'è altro da dire, perché la canzone veramente parla da sola. E quindi la sentiamo. We're the heart full of napalm. Torniamo in diretta con Buongiorno di Marca su Radio Conegliano. Siamo con Raffaele Ferraro, autore di Raffo Ferraro on the Rocks. Per una persona non così informata sulla musica, insomma, si distinguono un po' dei macrofiloni, che sono un po' quelli degli autori più famosi. Da un lato, poi vedremo, anche ascolteremo Tom Waits, Lou Reed, abbiamo appena sentito Iggy Pop, per poi arrivare a gruppi altrettanto bravi ma magari meno famosi. È questo il percorso, diciamo, normale che fa una persona che si approccia alla musica, o il tuo percorso per esempio è un po' differente? Ma normalmente quando ci si avvicina al rock ci si avvicina a uno dei gruppi più famosi. Io ho iniziato ad ascoltare rock ascoltando i Doors. Un gruppo che mi è piaciuto molto, che ho ascoltato tantissimo e che ho ascoltato talmente tanto che mi risulta devo prenderlo molto piccole dosi oggi. Poi sono passato dai Doors, che per ovvi motivi avevano un repertorio limitato agli pochi anni in cui sono stati in attività, e ho scoperto i Rolling Stones, e da lì si apre un mare di rock. Da lì Lou Reed, e poi tutto il filone di Lou Reed, Television, Dream Syndicate, in un certo qual modo anche Tom Waits come modo di scrittura, gli Slint, e poi mano a mano si cerca di arricchire il proprio percorso musicale, e mi sono allargato in qualche modo anche un po' all'hard rock con Gillan, che abbiamo già sentito, con i Deep Purple, con gli AC/DC. Tornando al libro, queste qui sono comunque le colonne sonore di una storia che riguarda proprio la marca, riguarda proprio Treviso. Insomma, si riesce comunque a collegare tutto questo mondo che riguarda appunto la musica degli anni 70, 80 e 90, e invece poi la contestualizzazione riguarda una Treviso di oggi. Te hai poco più di 30 anni, per cui le tue 30 esperienze... tondi. Ah, 30 anni, ecco. E quindi le tue esperienze sono lontane, nonostante un ricordo molto approfondito e uno studio probabilmente molto approfondito della storia di queste band, però il romanzo riguarda le realtà personali e locali. Sì, il romanzo racconta, come accennavo prima, alcune cose che mi sono veramente successe e altre cose che non sono successe o che sono successe ad altri, ma che io inserisco parlando in prima persona nel romanzo. E so che anche Kerouac stesso faceva così quando ci fu quel viaggio da San Francisco a Denver di 3.000 miglia in 23 ore. Kerouac non lo fece, però poi nel libro lo racconta come se fosse successo a se stesso. Quindi sia dove i fatti sono veri, sia dove i fatti non sono veri, sono successi, comunque succedono al protagonista del romanzo, cioè succedono a me, anche quando non sono mai successi, perché se mi fossero successi io avrei reagito in quel modo che hai descritto nel libro. Il prossimo pezzo è dei Rolling Stones. C'è sempre un po' questa battaglia che si dice tra Rolling Stones e Beatles. Io non ti chiedo da che parte stai, io ti chiedo invece se ha senso dire erano meglio i Rolling Stones o erano meglio i Beatles. Sì, io ne parlo nel libro. Io premetto che sarò molto impopolare a dire che sono un detrattore dei Beatles, e ritengo che ci sia una grande differenza tra i due. Molto più genuini i primi e molto più su un'onda commerciale e un po' costruiti anche con dei session e gli altri, ma magari poi approfondiremo dopo aver sentito il pezzo di Rolling Stones. Quindi la sentiamo. Light. And then as life began, I said her yes. I said her yes. Augusta knew temptation. He loved women, wine, and song. And all the special pleasures of doing something wrong. The same to me. Oh yeah, oh yeah. He'll never make the same to me. Torniamo in diretta a Radio Conegliano in questa ora dedicata al rock e al rock di Raffaele Ferraro, autore del romanzo Raffo Ferraro on the Rocks. Abbiamo sentito poco fa i Rolling Stones con Saint of Me, un gruppo che è ancora in auge, uno dei più famosi del mondo e forse anche per questo maggiormente criticato, forse per essere al vertice da troppo tempo e anche per questo magari attaccato e criticato, nel senso che magari si dice come possono essere sempre al top da così tanto tempo, un po' commerciali qualcuno dice. Ma in realtà io credo che noi abbiamo in testa adesso questa immagine dei Rolling Stones, per chi li conosce adesso, che sono i baronetti di Sua Maestà, ma dobbiamo pensare che sono persone che hanno creduto nella loro musica e che Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards hanno vissuto in un monolocale in cui non potevano permettersi il riscaldamento per diversi mesi. Il bassista originario Dick Taylor mollò questa vita di stenti e tornò all'università, salvo poi immagino pentirsi dopo un paio di mesi la sua band di amici ebbe un'escalation di successo incredibile. I Rolling Stones non hanno mai nascosto di cercare i gusti del pubblico, però sono un gruppo di rock genuino e un gruppo che ha dimostrato di saper fare, almeno fino a tutti gli anni 90 compresi, dei grandissimi concerti e di essere capace di intrattenere decine o centinaia di migliaia di persone alla volta. In questo nostro percorso del romanzo di Raffaele Ferraro ci imbattiamo nel capitolo 6, nel primo e unico autore italiano presente, che è Franco Battiato, uno dei più ermetici nella scrittura e anche uno dei più apprezzati in certi ambienti. Partiamo da Battiato, perché questa scelta? Premesso che poi io lo scrivo nel libro, che non sono un amante di tutta la carriera di Battiato, ma le parti che più amo sono quelle tra fine anni 70 e inizio anni 80, quella parte iniziata da metà degli anni 90 e fino a quest'album in cui si arriva a inizio anni 2000, in cui c'è l'inizio della collaborazione col filosofo Manlio Sgalambro che scrive i testi. trovo che ci siano molti cantautori italiani che sanno scrivere veramente delle belle poesie e dei bei testi, però a differenza di... trovo o che li abbinino a musiche che siano di un genere che a me non piace, oppure che la musica sia un mero accompagnamento. Invece per me, che sono un grande ascoltatore di cantautori, soprattutto americani, Tom Waits, Lou Reed, è importante che la musica dia un aggiunto a quella che è la parola, altrimenti è un libro di poesie. Invece a me, oltre che al testo, deve rimanere anche impresso quella particolare chitarra, un momento musicale che lo accompagna, cosa che secondo me riesce in Battiato. Quindi noi adesso andiamo ad ascoltare La quiete dopo un addio di Franco Battiato. Cadeva la neve, curiosità e prudenza si univano ed indagavo. Mi avventurai a studiare il gelo e i suoi composti e le immense riserve. Verrà un altro temporale, sarà di nuovo estate e scoppieranno i suoi colori per le strade. Ci sentiremo crescere la voglia di viaggiare, di incontrare nuovi amori, nuovi amori, nuovi amori che ci faranno credere. Monti sorgenti dalle acque appariranno, le baie dell'incostanza, le valli dell'incoerenza, per superare questa noia. Prendi ciò che vuoi dai tuoi giardini sospesi nell'anima. Verrà un nuovo temporale e finirà l'estate. La quiete dei colori autunnali a riflettersi sulle strade e sugli umori, come il dolce malessere dopo un addio. Poche le cose che restano alla fine di un'estate, la quiete dei colori autunnali si rifletterà. Torniamo in diretta con Raffaele Ferraro su Radio Conegliano, autore di Raffo Ferraro on the Rocks. Stiamo ripercorrendo i vari capitoli del suo libro, articolato come fosse un CD musicale. Abbiamo appena sentito Franco Battiato. Io ti volevo chiedere una scelta, che quella dei una scelta difficilissima, ovviamente, quella di selezionare per un amante della musica come te solo 13 pezzi. Un album dovrebbe avere almeno 100 pezzi, forse, per una persona che come te ama collezionare, studiare la musica. Volevo chiederti, da quel che ho capito, in questa scelta ha inciso non solo la musica, ma anche l'arte figurativa, quindi la copertina. Beh, diciamo che è venuta per caso l'idea, in base a degli schizzi che avevo visto di Valentina Merotto, fatti a tutt'altro scopo, di fare delle parodie alle copertine degli album. E ho che cercato... ricordiamo quindi Valentina Marotto, illustratrice che ha curato appunto le illustrazioni del romanzo di Raffaele. Sì, io vidi un suo schizzo in cui era disegnato un serpentino avvinghiato a un'asta di microfono, mi fece subito pensare alla copertina di Low Power degli Stooges, e da lì l'idea di illustrarli tutti, e quindi anche il criterio di avere una copertina parodiabile con illustrazione come criterio di scelta delle canzoni, che forse anziché rendermi il tutto più difficile me l'ha anche semplificato, perché mi ha tra virgolette costretto a scartare qualcosa. Andando avanti un po' in questo percorso, il passaggio diciamo dai Rolling Stones, da Iggy Pop, poi sentiremo anche Lou Reed, a Tom Waits, è un po' un passaggio drastico, cioè Tom Waits fa un genere di musica totalmente diverso, però probabilmente c'è qualcosa che unisce tutti questi artisti e quindi anche Tom Waits. Sicuramente è legato a doppio filo con Lou Reed, sebbene Lou Reed ami le chitarre distorte e Lou Reed sia per antonomasia il cantante della città di New York, Tom Waits possa essere il cantautore di tutta l'America, non identificabile come una città delle campagne, cambia gli slang dei suoi personaggi a seconda di dove canta, e diciamo che il loro modo di descrivere ha grosse affinità, come un osservatore esterno che traccia alcune pennellate e lascia che la tua immaginazione faccia il resto. Quindi noi andiamo a sentirci Coney Island Baby di Tom Waits. Questa era Coney Island Baby di Tom Waits. Il prossimo autore sarà invece Lou Reed. Dicevi, ci sono molte cose che uniscono questi autori, ma anche che li dividono, ma Coney Island Baby è una cosa che li unisce. Coney Island Baby è il titolo di una canzone di entrambi questi due artisti, che però poi sono due canzoni completamente diverse e anche fatte in periodi storici diversi, perché questa che abbiamo appena finito di ascoltare di Tom Waits risale al 2002, invece quella di Lou Reed è una canzone di metà anni 70. E di Lou Reed avrei potuto scegliere, la cosa più facile sarebbe stata scegliere il primo album di Velvet Underground, quello della Banana, invece ho voluto dare risalto a un album che non è così conosciuto, ma che è il più bello, uno dei più belli che abbia fatto, che è un album Magic and Loss, che parla del dolore per la perdita di due amici morti di cancro. Newsweek lo definì l'album di rock più adulto che sia mai stato fatto. E questa canzone che ho messo nel libro è la canzone finale dell'album, in cui c'è una sorta di riconciliazione dell'autore con la morte. E allora sentiamo The Summation. When you pass through the fire, you pass through humble, you pass through a maze of self-doubt. When you pass through humble, the lights can blind you, some people never figure that out. You pass through arrogance, you pass through hurt, you pass through an ever-present past. And it's best not to wait for luck to save you, pass through the fire to the light. Pass through the fire to the light. Pass through the fire to the light. It's best not to wait for luck to save you, pass through the fire to the light. As you pass through the fire, your right hand waving, there are things you have to throw out. That caustic dread inside your head will never help you out. You have to be very strong, 'cause you'll start from zero over and over again. And as the smoke clears, there's an all-consuming fire lying straight ahead. Lying straight ahead. Lying straight ahead. Torniamo in diretta con l'ultimo blocco di Buongiorno di Marca, questa mattina con Raffaele Ferraro, autore di Raffo Ferraro on the Rocks. Io volevo chiederti in conclusione qual è il messaggio, che cosa hai voluto dire, cosa vuoi fare un po' con questo lavoro, cioè il primo motivo ispiratore, a parte l'amore per la musica, ho voluto diffondere un po' di musica che credo sia ottima e poco ascoltata, e sono felice che diverse persone che l'hanno letto mi hanno detto, mi è venuto voglia di riascoltare questo gruppo o di scoprire questo gruppo dopo averti sentito. È chiaro che non è facile scrivere un romanzo di questo tipo e trovare un editore facendo una cosa musica misto romanzo, e non è facile soprattutto perché ci sono gli Slint e Daniel Johnston e non ci sono Vasco e Ligabue e quindi molti non sono degli artisti in auge, ma io direi che il succo di tutto è riscoprire quell'amore per la musica che ho l'impressione che le generazioni precedenti avessero, e invece che al giorno d'oggi la musica formato iPod sia diventato un passatempo, qualcosa da ascoltare distrattamente senza riconoscerlo. Quindi il mio invito è riscoprire l'amore per la musica, per ascoltarla, che è un'attività a sé stante, non semplicemente un riempitivo mentre si fa qualcos'altro. Oliviero Toscani nella prefazione scrive: è strano leggere dettagli che nemmeno io conoscevo o mi sarebbe mai venuto in mente di cercare di conoscere. Erano cose che negli anni 60, noi che ne siamo stati gli autori e gli interpreti, non sembravano così importanti. Non ci rendevamo conto che stavamo vivendo gli anni che si sarebbero poi rivelati più incisivi dell'epoca moderna. Ne scrive questo Toscano nella prefazione del libro di Raffaele Ferraro, Raffo Ferraro on the Rocks. Noi ti ringraziamo e chiudiamo questa puntata di Buongiorno di Marca con l'ultima canzone, una ghost track nel tuo romanzo. Te la lascio presentare a te. Questa è For Those About to Rock We Salute You degli AC/DC. A me è sempre piaciuta come canzone, mi è piaciuta l'idea di che fosse ripreso il saluto dei gladiatori romani, morituritas saluntant, che in inglese sarebbe For Those About to Die We Salute You, con For Those About to Rock. Quindi a voi tutti dico rocchettari o rocchetturi, vi salutiamo. Ciao, grazie a tutti e grazie a Raffaele. We'll be right back. E adesso pubblicità.